Come possiamo noi regia? Porto. Dai. Le aggressioni. Andiamo? Ok, allora oggi è... Che giorno è? 3 luglio. 3 luglio. Forse 2. No. Forse 2. No. Oggi 3. È 3 luglio. E è un venerdì, siamo a Santa Anastasia, io sono Giulio, con me ci sono Libera e Vincenzo e siamo a casa della nostra ospite e partirei proprio da questo, cioè se ti va di presentarti partendo dal tuo nome, cognome, e raccontare un attimo chi sei, la tua età, quello che ci vuoi dire di te. Allora, io sono Miriam Corongiu, 52 anni, e l'azienda agricola agroecologica che noi abbiamo messo in piedi 7 anni fa, per noi intendo io e mio marito Vincenzo, è l'Orto Conviviale su Santa Anastasia, dato tecnico 3,9 ettari di estensione, coltivati a, prettamente albicocche e noci antichi e con spazi di orti ovviamente misti in agrosilvicoltura. Quindi noi abbiamo ereditato il terreno dai genitori di mio marito, che sono sempre stati qua. Io invece vengo dall'area più strettamente vesuviana, cioè dall'altra parte del Monte Somma, proprio il Vesuvio, sono di Portici. E quindi da sposata sono venuta qui. Dopo un ambientamento piuttosto lungo, insomma, e quando poi ho perso il lavoro circa 9 anni fa, perché avevo 44 anni circa, quindi 7-8 anni fa, l'azienda in cui lavoravo, che era un'azienda di navigazione in cui io svolgevo compiti tecnici non amministrativi, è andata in crisi, hanno cominciato a licenziare, io sono entrata nel troncone del licenziamento collettivo di 18 persone. E da quel momento, insomma, erano già un paio d'anni che volevamo fare scelte di lavoro differenti perché eravamo molto infelici nel contesto dove eravamo, sia io che lui. E quindi una volta che sono stata licenziata, erano 2 anni che cominciavamo a pensare di fare agricoltura, visto che il papà di Enzo faceva agricoltura, anche se la faceva in regime di convenzionale, perché loro avevano tutt'altro modo di intendere la presenza sulla terra, la produzione, eccetera. Quando siamo subentrati noi, abbiamo fatto un po' di sperimentazione e poi, insomma, abbiamo aperto l'Orto Conviviale, ma abbiamo cambiato completamente l'impostazione, la filosofia che c'era dietro, insomma, la piccola azienda agricola, che poi piccola nel vesuviano non è, nel senso che le aziende vesuviane normalmente sono anche di meno di un ettaro, quindi dipende, insomma, da che cosa intendiamo per piccolo. È sicuramente piccolo rispetto alla Piana Felix, dove ci sono anche appezzamenti di 10, 20, 30 ettari a seconda, insomma, di come viene ripartita la terra. Nel Vesuviano qui è un'ottima porzione di terra per lotti separati, il grosso è intorno casa dove siamo adesso, e poi ci sono dei piccoli lotti che sono in fondo alla strada, insomma, e si raggiungono con il trattore, insomma, con la macchina, quindi poche centinaia di metri, però a piedi è più disagevole da questo punto di vista, se poi ci devi andare a lavorare. Da quello che capisco, sia tu che Enzo, tuo marito, venite da altre esperienze lavorative e professionali, però tu dicevi che Enzo, la famiglia, era una famiglia che faceva agricoltura. Tu avevi avevi esperienze agricole prima e qua non c'è Enzo, però se avete mai parlato invece delle sue esperienze, di come ricorda quel tipo di agricoltura. Allora, io non avevo mai avuto nessuna esperienza, anche perché abitando a Portici in un condominio al terzo piano, dove l'unica erba che cresce è quella dei fiori, insomma, nel vaso. Quindi, però mio padre, che era sardo, era contadino, e quindi lui ovunque si muovesse, tipo nei giardini della parrocchia, andava a mettere le piantine di zucchine e coltivava lì, perché lui è nato così. Enzo invece, i genitori hanno sempre fatto agricoltura e lui da piccolissimo in realtà ha lavorato nella terra, perché come finiva la scuola, il padre lo mandava a lavorare nei campi, quindi all'epoca qui c'era una vera e propria fattoria, c'erano le mucche, i maiali, c'erano moltissimi animali, ovviamente le galline, eccetera. Quindi si coltivava anche per dare da mangiare agli animali, si coltivava soprattutto la frutta, quindi le albicocche e le noci un tempo rendevano e quindi con quello portavano avanti la famiglia. E gli orti in realtà non erano concepiti per la vendita, erano concepiti soltanto per il fabbisogno familiare, il cibo della famiglia. Le zucche all'epoca erano le cocozze da seme, insomma si coltivavano soltanto per darle ai maiali, e la zucca non era nemmeno concepita, da quello che mi raccontava mio suocero, che mi ha insegnato a lavorare nei campi, perché io adesso per questioni di salute, insomma, non ci posso proprio andare più, e sono ormai già da 3 anni che ho l'obbligo di non andarci più, però quando ho cominciato non volevo fare soltanto, insomma, la parte amministrativa o la parte di comunicazione, la parte di vendita, stare con le persone. C'è stata una motivazione forte che mi ha spinto a fare questa cosa, è che io volevo separarmi dal cemento, non volevo più stare sotto la luce artificiale. Avevamo un capitale enorme che non poteva essere abbandonato, perché poi i genitori di Enzo erano molto anziani, quindi abbiamo Enzo nei weekend aiutava il papà, insomma, a tenere in ordine, a curare la terra, ma non era più un'azienda agricola funzionante. In realtà era solo lavoro di cura. E se si riuscivano a vendere le albicocche e le noci, bene, a qualunque prezzo, ovviamente, e quindi anche molto sottopagate. Perché c'era l'idea che, che chiaramente, questo secondo me è un'esperienza che facciamo un po' tutti, una volta che hai seguito gli alberi, principalmente, perché le colture ortive chiaramente, insomma, hanno una periodicità molto più stretta e stagionale, ma una volta che hai seguito gli alberi e li hai curati per un anno intero, non arrivare al momento del raccolto è un tradimento. E non si raccoglie perché non te le pagano queste albicocche, ovviamente, non c'era verso, ci hanno offerto anche 5 centesimi all'epoca, e noi quando siamo subentrati come al chilo, quando siamo subentrati come azienda agricola, abbiamo cominciato a fare i conti, abbiamo cambiato il regime di agricoltura, il frutteto è certificato biologico, perché è comunque abbastanza grande, ma comunque non ci è servito, se serve magari ne parliamo anche dopo, però insomma io 2 conti me li sono saputi fare, e abbiamo deciso di interrompere qualsiasi tipo di contatto anche con le persone che lavoravano con il papà di Enzo. Fermo restando che noi abbiamo deciso in ogni caso di rompere qualsiasi tipo, cioè non abbiamo mai venduto oltre questo luogo in cui siamo adesso, perché le persone vengono qua a comprare le verdure e la frutta, e al massimo quello che facciamo è servire qualche piccolo negozietto in maniera molto saltuaria, uno sta a Roma, e per il resto noi ci avvaliamo soltanto di progetti etici come la Buona Terra, che tu conosci, insomma, che con Anna Maria Taliento, insomma, gli altri, riusciamo a stare insieme su una cordata etica del pomodoro, riusciamo a fare questo lavoro. Torniamo poi su vari pezzi delle cose che hai raccontato. Cioè, avevo una curiosità molto rapida. Che lavoro faceva Enzo, diciamo, ha fatto nel periodo in cui appunto non era ancora dedicato all'agricoltura? Allora, Enzo è tuttora geologo e lo svolge come libera professione. All'epoca era impiegato sempre come geologo, quindi prima, un attimo prima di perdere il lavoro, tutte e due. Lui era impiegato come geologo in un'azienda a Santa Maria Capua Vetere e si occupava proprio del settore terre, quindi lui ha sempre lavorato come geologo. Infatti una delle grandissime risorse tecniche dell'orto conviviale è Enzo, perché Enzo ha fatto agricoltura da che aveva 6 anni e poi è diventato geologo, quindi diciamo che la terra, secondo me, pochi la conoscono veramente nella sostanza come lui. Poi una cosa è produrre, no? E allora ci sono molte declinazioni, però poi su come va gestita proprio la terra, le analisi delle acque, per esempio, che noi abbiamo voluto fare. Cioè Enzo è idrogeologo, specializzato proprio in questo, e adesso continua a lavorare a contratti di consulenza anche con la Regione Campania, si occupa di acque termali e ha la sua libera professione. Mentre io mi occupo esclusivamente dell'orto conviviale e di tutto il resto, che è lavoro di cura e che non può essere mai sottaciuto, secondo me, della famiglia, che vuol dire mia figlia di 16 anni, mia madre fino a che c'è stata, insomma, e poi io ho sempre fatto, e questo io lo ricomprendo nel lavoro di cura, perché così è, che è il lavoro di cura del territorio, poi magari come tu hai detto, ne parliamo dopo, io ho sempre fatto politica dal basso, soprattutto dal punto di vista ecologista su Terra dei Fuochi. E le dimensioni della realtà produttiva ce le hai accennate prima. Volevo soffermarmi un attimo sul fatto che della forma giuridica. Sì. Voi avete come che forma giuridica avete e perché avete fatto la decisione appunto di assumere questa forma specifica? Allora, è una ditta individuale che è intestata a me, quindi sono io la titolare dell'azienda, anche se io non mi sono mai saputa definire imprenditrice agricola, sarei imprenditrice agricola professionale, sarei IAP. Questa forma era l'unica possibile, a parte coltivatori diretti, diciamo così, perché per l'estensione di terra che avevamo comunque dovevamo assumere in ogni caso qualcuno per poter lavorare la terra, che in realtà c'è parliamo di uno, massimo due persone oltre noi che lavorano nella terra e sono ragazzi che vengono dal Mali e che abitano a Sant'Anastasia. Quindi questa scelta ci è stata consigliata anche dall'agronomo, insomma, di andare in una certa direzione e lavorare in questo. Ma del resto, più che ditta individuale, non avremmo potuto in nessun caso essere, perché non ci sono le forze, non c'era l'investimento economico da poter fare. La casa che vedete l'ha costruita il papà di Enzo. Cioè tutto quello, io sono venuta qua e sono stata veramente, sono immigrata su Sant'Anastasia e quindi alla fine insomma mi sono ritrovata in una realtà già forte, già costituita anche dal punto di vista agricolo. Volevo chiederti, quando hai specificato il fatto, abbiamo poi un po' sotto suggerimento dell'agronomo e poi deciso di fare l'azienda agricola, ma perché tu avevi pensato anche a qualche altra formula oppure un'altra, diciamo, idea di mettere sulla realtà agricola? Oppure... Allora, questa è una domanda che a cui sto rispondendo soltanto nell'ultimo periodo in realtà, perché quando siamo partiti io non avevo un'idea molto chiara, no? Non avendo mai fatto agricoltura, non avendo mai fatto nemmeno imprenditoria, cioè alla fine, quindi la libera imprenditrice io non l'avevo mai fatta, ero sempre stata dipendente e avevo anche molta paura di fare un'impresa, anche piccola, perché ero convinta di non avere molti numeri per poterla gestire, nel senso che ho avuto una vita familiare da ragazza molto complessa dal punto di vista economico, quindi avevo veramente paura di imbarcarmi in una cosa che magari poteva essere fallimentare, no? Anche se magari i soldi che investi ci sono, per aprire un'azienda agricola all'epoca ci chiesero 3.000 euro dal punto di vista burocratico, amministrativo, che potevamo anche mettere con le liquidazioni che avevamo, no? Però considera che la terra l'avevamo già. Quindi il nostro investimento è stato limitato veramente all'apertura burocratica dell'azienda agricola, alle scelte che dovevamo fare. Però nell'ultimo periodo io questa cosa me la sono chiesta molto, perché al di là del fatto che oggettivamente, insomma, noi abbiamo aperto l'azienda agricola con una forma giuridica specifica e abbiamo addirittura chiesto la certificazione biologica sul frutteto, che è abbastanza grande, perché è una figlia di 16 anni e abbiamo anche delle nipoti. La terra qui appartiene non soltanto a Enzo, ma alle due sorelle di Enzo, che hanno figlie ciascuno di loro. Noi nella nostra testa pensavamo di portare avanti, no, la cura della terra e di poter lasciare qualcosa a queste ragazze, che nel caso in cui, come al 99% sarà, non sono interessate ovviamente a gestirla, però almeno potevamo lasciare un terreno produttivo certificato in bio, che se magari avessero voluto continuare, non lo so, a fare le confetture di albicocche in biologico, magari poteva essere per loro un'attività secondaria. Oggi il lavoro è precario per chiunque, quindi ci siamo immaginati, insomma, una piccola via d'uscita anche per tutte loro. Una via d'uscita che però con queste scelte non si è proprio realizzata, perché innanzitutto la certificazione del biologico a noi non serve assolutamente. Ci è servita, ci serve adesso, ma siamo per chiuderla, perché se le cose non vanno nella maniera giusta, entro l'anno prossimo la togliamo proprio, per il semplice fatto che noi abbiamo il parco alberi soprattutto, che è molto molto diversificato, a parte le albicocche e noci di cui ti parlavo prima. In realtà ci sono alcuni pezzi in cui la varietà delle essenze arboree è così alta che dal punto di vista della certificazione è quasi impossibile da gestire. cioè la certificazione biologica non tollera la biodiversità, in realtà. Sembra una sciocchezza, ma in realtà è così. Noi non abbiamo mai voluto, perché non riescono a registrare la grande varietà di alberi, perché noi qua dietro fummo costretti a espiantare l'albicocchetto nel pezzo qui dietro, e abbiamo messo tutta una serie di alberi che noi chiamiamo il giardino degli alberi dimenticati, che abbiamo preso un po' nei vari vivai, compresi l'azienda Improsta, che è ancora alleva forme di vita da Banca del Seno, insomma, quindi melograni antichi, alberi molto antichi. E io ho voluto fare questo tipo di investimento in vita, no? Non era una grande soluzione commerciale, e mai lo sarà. Perché un bosco, alla fine, così diversificato, in cui veramente ci sono alberi di tutti i tipi, è chiaro che è difficile da gestire dal punto di vista produttivo, perché ogni albero vuole la sua cura. Quindi una cosa è avere 50 metri, ovviamente, piccole in realtà, l'albicocca è una cosa, anche in 50 metri ci sono 10 alberi diversi. Quindi c'è bisogno di molta attenzione e molto tempo, e quindi ancora non sono molto produttivi questi alberi. Poi alcuni eventi estremi ci hanno abbattuto diverse piante che non abbiamo sostituito, eccetera. Quindi la certificazione del biologico proprio non serve quando fai questo tipo di scelte. E poi, per esempio, gli orti non abbiamo mai voluto metterli a certificazione biologica, perché il miscuglio, anche quello non è possibile registrarlo. Adesso forse sì, se è passato qualche emendamento, non lo so, in sede europea soprattutto, su quello che è il regime di bio, però in realtà per noi era impossibile, perché ci sono delle strettoie burocratiche così forti. Noi non riusciamo a riprodurre il seme, questa è una delle cose che abbiamo fatto all'inizio con i semi che avevamo, però non siamo mai riusciti a fare anche questo lavoro, perché la terra per noi è tanta, per due persone più uno. Io poi sono venuta meno qualche anno fa, quindi questa cosa, quindi io all'inizio gestivo anche i semi, però poi non erano abbastanza produttivi, quelli che avevamo non erano abbastanza produttivi, non li abbiamo forse anche saputi gestire, per carità di Dio, perché io penso che noi qua abbiamo ancora una marea di roba da imparare, non si finisce mai. Ed è un lavoro anche non solo faticoso, ma è proprio un lavoro a sé, cioè è un mestiere a sé, insomma, che devi saper fare veramente bene, la scelta, la selezione delle piante, eccetera. Quindi è una cosa molto particolare che noi non siamo riusciti a ripetere nel tempo. Questo anche perché noi abbiamo dato anche all'orto conviviale una declinazione molto di comunità, no? Noi abbiamo sempre guardato, non so se posso parlare e andare avanti, vai. Noi abbiamo sempre guardato a... però voglio finire di rispondere, scusami, voglio finire di rispondere alla tua domanda, perché mi sembra molto interessante. Nell'ultimo anno in cui io sono stata veramente tanto peggio, e quindi veramente anche il lavoro qua con la gente mi risulta a tutte le temperature, anche se non va in campagna, io sono andata a fare parecchio lavoro in campagna, soprattutto lavoro di raccolta, lavoro di cura, quindi il diserbo manuale, qualsiasi lavoro sono andata a fare, e per molto tempo. Ho dovuto smettere, poi mi sono dedicata quasi esclusivamente alle persone, ma anche quello adesso mi riesce molto molto difficile, perché dopo poche ore, insomma, io sono distrutta. E quindi mi stavo chiedendo, no? In realtà io sono molto affezionata all'idea dell'orto convivale, perché l'orto convivale è il mio alter ego, cioè questa azienda è nata non soltanto perché dovevamo lavorare, avevamo un patrimonio e ci sembrava assolutamente uno spreco, no? Non lasciarlo così com'era. Quindi noi abbiamo pensato molto anche al papà di Enzo quando abbiamo fatto questa scelta. Però è probabile che il momento in cui dovremmo fare scelte più radicali anche in termini di chiusura, e questo rimane qua come tipo di confidenza, forse non è così lontano come io pensavo 3 anni fa. Allora, in relazione, in prospettiva, se io non dovessi più farcela fare nulla, no? E dovessi veramente dedicarmi a un tipo di vita più seduta, diciamo così, che cosa rimane dell'orto conviviale? Allora, non è l'azienda che deve rimanere. Non è quello, cioè il discorso è questo, è che la forma azienda ce la siamo data perché abbiamo pensato alle ragazze, ce la siamo data perché già c'era, perché il papà di Enzo aveva sempre ragionato così, e quindi noi in qualche modo volevamo anche dare un senso a quel tipo di eredità. Però poi alla fine quello che abbiamo cercato di fare qua non c'entra proprio niente con la burocrazia, le carte e quello insomma che ne abbiamo anche ricavato in termini economici. In realtà il messaggio più radicale che noi abbiamo cercato di dare era quello innanzitutto del presidio di una terra che altrimenti sarebbe stata abbandonata e che continueremo a fare comunque, anche quando non ci sarà l'azienda agricola. Tra l'altro noi quello che abbiamo fatto in questi anni di orto conviviale, per questo ho detto la declinazione principale dell'orto conviviale è quella dell'agroecologia come agricoltura di comunità. Cioè qui dentro, nel giardino che c'è alle mie spalle, in questo spazio e in tutti gli orti ovviamente, ne abbiamo portato centinaia di persone con i laboratori gratuiti e anche un po' a pagamento a prezzi popolari, fatti solo ed esclusivamente in sinergia con tutte le altre associazioni, librerie, gruppi organizzati di politica, qualsiasi cosa, da Marco Mizzolo che è venuto qua due volte a parlare di sfruttamento in agricoltura, fino ai convegni su Terra dei Fuochi, ai laboratori per scavare le patate con i bambini, con le letture di Maria Carmela, di mia nonna e Michelangelo che sta a Pomigliano. Abbiamo fatto presentazioni di libri, abbiamo fatto il cinema all'aperto, abbiamo fatto momenti conviviali di ogni tipo in cui, per esempio, quando non abbiamo potuto raccogliere le albicocche, a parte quelle che abbiamo venduto qua, quelle che abbiamo trasformato, abbiamo fatto fare le confetture, i succhi e qualche altra preparazione, ma il resto era troppo, perché qua erano solo albicocche, era troppo. E allora noi, siccome non ce l'avrebbero pagate il giusto e non ci interessava più intrattenere quei rapporti di intermediazione che aveva il papà di Enzo, perché loro sono venuti a bussare alla porta perché c'era Anello, ma morto Anello e subentrati noi, le cose sono radicalmente cambiate. Gli anni in cui abbiamo deciso di non raccoglierle più, noi abbiamo invitato le persone: prendetevi tutte le albicocche che volete, l'unica cosa da fare in cambio, portate qualcosa da mangiare che dividiamo tutti quanti insieme, vi offriamo lo spazio, la serata, quello che volete, vi raccontiamo, portate i bambini, vi raccontiamo perché non possiamo più raccogliere le albicocche, qual è il motivo, e vi spieghiamo qual è la storia dell'albicocca del Vesuvio, e che ha fatto contente un sacco di famiglie, un sacco di bambini. Quindi questo è stato, diciamo così, il compito dell'orto conviviale, che poi tra l'altro, proprio dal punto di vista ambientale, avere una voce che è mediamente la mia, mediamente in grado di parlare di ambiente, di ecologia, eccetera, in un contesto come quello di Terra dei Fuochi, dove le voci legate all'agricoltura praticamente sono assenti, ha avuto una valenza importante, collettiva e mai personale. Quindi abbiamo guardato soprattutto a questi aspetti. Cosa rimane se io non dovessi più farcela veramente, a fare nemmeno le cose che sto facendo ora? Rimane sicuramente la staffetta. Cioè io so benissimo che tutto il lavoro che ho fatto non l'ho fatto da sola, perché ci sono persone come Libera, ci sono tantissime altre persone che hanno portato avanti un certo tipo di agricoltura. Io non mi posso e non mi devo caricare, no? Del presenzialismo che è legato a quella voce su Terra dei Fuochi, a quella voce sui tavoli politici di agroecologia dal basso, sul piano salariale, sul piano di genere, perché io qui è nato anche un altro gruppo che si è occupato di ecofemminismo rurale, insomma, quindi io ho lavorato moltissimo, lavoro ancora con una di meno, insomma c'è una prospettiva precisa nelle cose che faccio. Però se io smetto di avere una voce e continuo a curare solo il campo per quello che riesco a fare, perché io mi immagino, per la verità, che quando non potremo più, insomma, se l'orto conviviale dovesse chiudere, magari ecco, ritornerò a fare l'orto per me e allora forse avrò le energie per curarlo quell'orto, no? E io un po' me lo sogno questa cosa, che non riesco più ad andare a lavorare dove ci sono filari e filari di pomodori, anche se non sono mai tantissimi, però sono comunque 3.000 metri quadri per fare il pomodolino del pieno, eccetera, io non riesco a lavorarci. Ma due filari per la famiglia invece sì, e quindi io mi immagino di ritornare a quando le piante di zucchine me le curavo solo io, e quando appena fui licenziata, una delle ricordi più belle che ho è quello di aver curato il campo, raccolto le zucchine, le ho portate a tavola e ho dato da mangiare a mia madre e a mia figlia, e tre donne allo stesso tavolo legate da un chilo di zucchine, forse è uno dei più grandi e più bei ricordi che ho, e l'orto conviviale è e rimane quello. parlato troppo. Abbiamo troppo. E allora, intanto grazie. Ti torno su alcuni aspetti per completare un po' il tuo flusso, che già dice molto. Ci hai parlato in particolare di che cosa la certificazione biologica non fa. Se ti va, ci racconti un po' di più quello che producete e i metodi che utilizzate. Tu all'inizio hai fatto una carrellata. Se ti va di raccontarci un po' quello che produci e con che metodi. Sì. Allora, tuttora noi abbiamo sempre prevalenza di albicocche e noci, ovviamente, e le albicocche raccogliamo solo quello che possiamo e riusciamo a raccogliere in relazione alla vendita. Quindi anche l'input di energia che mettiamo all'inizio, cioè in fase produttiva, perché tutto qua è strutturato per avere il più basso impatto possibile sui cambiamenti climatici. Comunque sono attività produttive, l'attività produttiva dall'inizio implica l'uso di energia, che fosse anche insomma i trattamenti del tutto biologici che facciamo agli alberi, insomma eccetera, anche quelli li razionalizziamo il più possibile. E comunque, non raccogliendo più tante albicocche, curiamo anche una parte degli alberi meno, cioè li teniamo in vita, e io penso che gli alberi adulti siano fondamentali, soprattutto adesso che con i cambiamenti climatici servono gli alberi adulti. Cioè quella pratica legata alla stragrande maggioranza degli agricoltori convenzionali di espiantare gli alberi e metterne il ciclo 5-7 anni, il tempo che finiscono di moda, di andare di moda, perché la genetica legata, insomma, alle essenze arboree, così come alle colture ortive, e va in quella direzione là, sia una pratica deleteria, stupida, per due motivi. Uno, perché gli alberi ci servono per la fotosintesi, e quindi in quest'epoca chi più degli alberi, ma sono esseri viventi, santo Dio. E questi, gli agricoltori, questa cosa, fanno una grandissima difficoltà a comprenderla. Noi ci siamo posti il problema di avere a che fare con la vita tutti i giorni, no? Quindi noi continuiamo con albicocche e noci. Abbiamo messo questi alberi dimenticati, che però ancora non sono molto produttivi e ci danno grandi problemi di cura. Però di là abbiamo per esempio pere e mele cotogne, abbiamo giuggiole, abbiamo diversi tipi di prugne e di mele antiche come la mela francesca. Fanno ancora molto poco. Però io siamo partiti anche là, insomma, dal concetto che non è possibile che sia il mercato a decidere chi deve vivere e chi no. È solo perché un frutto non è adatto alla grande distribuzione o alla moda del momento o al mercato generale, non abbia diritto di vivere. Quindi io morirò e voglio morire là dentro, dove ci sono tutti quegli alberi diversi e dove loro hanno diritto a vivere esattamente come il mio corpo. Il resto abbiamo messo anche delle pere, insomma, devo dire una varietà più moderna, e dall'altro lato c'è anche un piccolo melograneto, che è sempre una varietà più moderna e che noi coltiviamo sempre in regime di agroselvicoltura, quindi gli orti sono fra gli alberi, non tutte le colture sono in pieno sole, a parte i pomodori che chiaramente ne hanno un gran bisogno, è chiaro che non è ombra completa, altrimenti non potremmo crescere niente, però poi ci sono orti misti stagionali di qualunque tipo. Ci sono ancora alberi antichi qui dietro, gelsomoro, alberi di cachi, insomma, che erano gli alberi che aveva piantato Aniello e che sono rimasti là. Quindi le nostre specie di albicocche sono solo quelle locali. Non abbiamo mai voluto mettere le albicocche del gruppo Cot, quindi le Beauty Cot, le Wonder Cot, queste moderne di laboratorio che si fanno adesso, e abbiamo lasciato le pellecchielle, le palommelle, la Tirintos, che in realtà è abbastanza problematica come pianta e ne ha portati dei problemi, però la mise lui, l'abbiamo lasciata, e la Vitillo, diciamo che queste sono le quattro cultivar principali che abbiamo tranquillamente lasciato. E poi gli orti invece sono stagionali e compriamo le piantine in vivaio, per la verità, perché come ti ho detto, insomma, non riusciamo più a ripetere il seme, a parte, insomma, all'epoca facevamo ancora zucche, zucchine, le cose più semplici, diciamo, no? E anche se il papà e la mamma invece replicavano quasi tutto. E quindi siamo andati avanti in questo modo qui. Che altro riguardo questa domanda? No, questo era. E oltre alla produzione agricola, avete anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli? Sì, noi comunque trasformiamo perché, allora, la trasformazione, a parte gli alberi da frutto che chiaramente sono impegnativi da questo punto di vista, però noi comunque la trasformazione è venuta soprattutto per regolare, tra virgolette, le eccedenze. Allora, siccome noi piantiamo solo quello che è necessario piantare e quindi cerchiamo di non avere sprechi di energia a monte in fase di produzione, la vendita è fatta qui a casa, proprio qui dietro, due volte alla settimana, il martedì e il venerdì, a famiglie, vendiamo solo ed esclusivamente a famiglie. Ci organizziamo con un gruppo WhatsApp, quindi io il giorno prima per il giorno dopo, in questo gruppo WhatsApp in cui ci sono circa 300 persone, ma sono attive ovviamente, sono soltanto una parte, diciamo un quarto, 50-60 famiglie secondo me, sì, a rotazione un po' sì. Il giorno prima per il giorno dopo noi chiediamo, mettiamo una lista con tutte le disponibilità del giorno successivo, con il prezzo e anche le conserve, così le persone liberamente, vedendo il prezzo, possono scegliere che se vogliono comprare qualcosa, quello che c'è bisogno, di cui hanno bisogno in casa. Dopodiché noi raccogliamo solo in base agli ordini che abbiamo ricevuto e poco più, perché magari qualcuno di occasionale tramite la pagina Facebook e Instagram arriva sempre. A fine giornata quello che rimane, se è tanto oppure se le zucchine sono esplosive per lo più, o le zucchine proprio si escono per le orecchie, oppure altre colture, se per dire abbiamo piantato un po' in più e la coltura è stata abbondante, insomma la coltivazione è stata buona, allora se è tanto trasformiamo. Il pomodoro è chiaro che lo mettiamo per fare decisamente anche le passate, il pieno, contribuiamo al progetto etico della Buona Terra con gli altri, quindi abbiamo una quota di pomodoro che ci viene prenotato, poi magari ne parliamo della modalità, e viene trasformato quello che è abbondante, veramente abbondante, quello che rimane nelle cassette lo dividiamo con le famiglie, qua abita la sorella di Enzo, c'è l'altra sorella, ma se le persone che arrivano a fine serata o che ritirano per dire hanno avuto problemi la mattina successiva, quello che è rimasto nelle cassette si divide con le persone che vengono qua. E in genere in realtà quando è veramente molto abbondante, se vendo il chilo di zucchine ma ne ho 2000 nella cassetta, quel chilo diventa 1,5 kg, perché ovviamente non glielo faccio pagare, perché nel senso che le pesate sono abbondanti. Sì, sono sempre abbondanti, e considera che poi comunque dietro quella che secondo me è una pratica normale in agricoltura, no? Nel senso che un albero può essere incredibilmente produttivo, quindi un albero di albicocche e un albero di mandarini possono sfamare molto più che una famiglia in termini di frutta. Quindi c'è una generosità di fondo, no? Nel sistema, nella rete della vita. Io non uso quasi mai il termine natura, perché il termine natura è secessionista, è separatista e indica soltanto il dominio che noi riusciamo ad esercitare su quello che è uno spazio altro da cui vogliamo estrarre tutto. C'è un sistema che è quello dell'economia del dono, si dice in decrescita felice, e le persone non sempre l'acchiappano questa cosa, perché ci sono persone che si ritraggono. Se tu vuoi fare un regalo, non tutti l'accettano volentieri, non sono abituati, non so se capita anche a te questa cosa, perché a me ci sono delle persone che io te lo regalo, no te lo voglio pagare, cioè non c'è proprio l'abitudine, siccome siamo abituati a monetizzare qualunque cosa. E soprattutto per chi non frequenta certi ambienti, non è abituato a ragionare insieme agli altri, ecco forse questo, spesso ci si ritrae di fronte a questa cosa. Invece per noi è molto importante, uno perché è giusto, cioè non si deve buttare niente, cambiamenti climatici o no, è un cibo di valore, è un cibo vivo, diceva Andana Shiva, è un cibo vivo, quindi non si può in nessun modo buttare. Noi cerchiamo di non fare rifiuti in nessun modo, nel senso che anche le persone che vengono qua, noi compriamo delle borse biologiche ovviamente per mettere dentro, ma siccome è su prenotazione chiediamo anche alle persone o di portare le loro riciclabili, che io trattengo qua con il nome sopra e le riempio volta per volta, oppure chiediamo a loro di portare la plastica e la carta che a casa butterebbero, le buste, in maniera tale che almeno un altro giro di vita se lo fanno. Quindi cerchiamo di far ragionare le persone su questo sistema produttivo, no? E di far capire loro che c'è un valore molto grande, che non è quello del prezzo. Chiedo una cosa molto più banale dei ragionamenti. Devo rispondere anche che ci provo. Okay. Avete un laboratorio di trasformazione, scusa, o fate una trasformazione artigianale? O vi appoggiate a terzi? Scusami, ho divagato io. Allora, abbiamo per legge, se facciamo conserve in quanto azienda agricola ci dobbiamo appoggiare a un laboratorio autorizzato, che è quello del cugino di Enzo. Quindi noi abbiamo una trasformazione controllatissima, ovviamente, perché quello che entra da Daniele è il nostro, quello che esce. E non sempre, nella grande industria conserviera questo processo non si può controllare. L'agevolazione che abbiamo è che essendo una piccola un piccolo laboratorio prende anche piccole quantità, quindi prende a noi quando avanza la cassetta di zucchine o la cassetta di melanzane, Daniele non ci fa problemi, perché lui con il processo di trasformazione che ha gli fa comodo anche avere una cassetta di melanzane piuttosto che una tonnellata di melanzane. Quindi noi abbiamo la possibilità di trasformare le nostre piccole quantità, perché il laboratorio di trasformazione è un piccolo laboratorio. Poi sì, facciamo anche una trasformazione casalinga, diciamo artigianale, perché Enzo fa il vino, lo fa lui. Le uve non sono le nostre, perché qua non è proprio terra di uva. Non abbiamo un filarino di uva da tavola, ma qua in piano nessuno coltiva uva, e ci siamo attenuti a quello che è anche la vocazione del territorio, al terreno, quello che dà la possibilità di fare. Oppure io all'inizio facevo anche tante altre conserve io particolari, pomodori secchi sott'olio, stendevamo qua nelle matrelle che lui aveva costruito a mano, i San Marzano nostri seccavano al sole, poi li preparavo io, eccetera. Più altre cose, tipo pesti particolari che però vendevo sul momento, le zucchine e menta, queste cose così. Venendo io meno anche da questo punto di vista non le abbiamo fatte più, però per il regime fiscale burocratico che noi abbiamo sono quelle cose sotto banco che non sono consentite per legge. Adesso c'è una legge sull'agricoltura contadina anche in Regione Campania, pensavamo in un futuro insomma di aggrapparci anche a quella, però non me la sono ancora studiata bene, conosco molto meglio quella della Regione Sicilia, per la verità, e quella della Liguria, sono uscite prima, però la mia ancora non l'ho vista, quindi l'ho letta, l'ho scaricata, l'ho letta una volta, ma non me la ricordo bene, quindi non voglio parlarne approfonditamente. Prego. No, era per l'aereo. Ah, ok. Posso chiederti un po' di più su... cioè a chi vendete i prodotti e tramite quali canali, no? Se ci hai raccontato alcuni pezzi, se espandiamo un po' su questo. Sì. E anche perché? Sì, sì. Allora, noi proprio perché volevamo... allora, la grande distribuzione, e lo dice secondo me molto bene Marco Mizzolo, è il primo caporale. Quindi noi che abbiamo sempre guardato anche allo sfruttamento del lavoro in agricoltura, non il nostro, noi rimaniamo imprenditori agricoli, quindi rimaniamo, tra virgolette, padroni della terra, eccetera, sulla carta, poi io non la penso così, però le persone che vengono a lavorare qua, che sono 1/2, poi cambiano sempre, ed è un gravissimo problema questa cosa dal punto di vista della gestione, con te ne abbiamo anche parlato in altri contesti. Volevamo insomma interrompere la catena. Questa è stata una scelta proprio precisa, che non è stata nemmeno dovuta al limite al liminare del prezzo, diciamo così, non era quello. È vero che non ci pagavano niente per le albicocche, però proprio concettualmente era una cosa che volevamo allontanare. Noi volevamo fare agricoltura per famiglie, perché è da qui anche tutti gli eventi che abbiamo fatto, no? Quello che abbiamo cercato di fare con i bambini, con gli adulti, perché uno dei lavori più importanti per noi è quello di parlare con le persone. E Masanobu Fukuoka, che è l'inventore dell'agricoltura naturale, diceva che bisogna coltivare prima le persone e poi la terra. Quindi io, quando ho aperto l'orto conviviale, sono andata a lavorare in campagna con lui e con mio suocero, che mi ha insegnato la sfemminellatura dei pomodori, mi ha fatto vedere tutta una serie di cose, ma ho studiato anche tanto sui testi di agroecologia, mi sono informata, volevo capire quale strada dovevamo prendere. Una volta capita qual era la strada che volevamo prendere, la grande distribuzione non c'entrava niente. Quindi noi abbiamo messo su semplicemente Facebook e Instagram. Instagram me lo gestisce anche mio nipote, io per lo più guardo la pagina Facebook, perché la mia generazione è nata sui social con Facebook, quindi Instagram è più fresco, dicono le mie nipoti, e quindi io c'ho meno voglia di stare appresso a tutti questi social. E quelli sono stati le uniche cose, perché poi in realtà il passaparola è stato il metodo, diciamo così, che più ci ha portato persone, perché le persone qua hanno sempre trovato non solo le verdure ma uno spazio, no, di accoglienza. quindi vengono le persone, come immagino sia anche da te alla fine, no? Entrano, si fanno il caffè, fanno da sole, si tolgono le scarpe, portano i bambini, si mettono a leggere, insomma, abbiamo sempre offerto la terra priva di confini, no? Certo, con delle abitudini che ci consentissero di avere una vita familiare, perché poi è tutto intorno casa, quindi è una ragazza di 16 anni, comunque devi preservare un'intimità. Però abbiamo sempre aperto a tutti, quindi questa cosa è stata molto importante. E l'altra cosa che chiaramente ci ha portato persone era il fatto che io a un certo punto, per forza di cose e per via di Terra dei Fuochi, sono diventata più visibile. E quindi questa cosa, chissà perché poi, chissà perché, o meglio, noi lo sappiamo perché, una donna che fa agricoltura sembra sempre come se fosse la grande eccezionalità del mondo moderno, che è una cosa che io ho sempre contestato, perché poi in realtà non ho mai marciato sul fatto che fosse una donna, al contrario. Cioè, dovevamo sfatare il mito che noi donne in agricoltura, che ci occupavamo anche del pezzo tecnico, diciamo così, della terra, fossimo l'eccezione, no? Rispetto ai colleghi maschi, che pure a me è capitato, quando parlavo, guardavano lui. Guardavano mai. Beh. Quindi abbiamo cercato di lavorare in tante direzioni. Quindi le famiglie sono arrivate per questi motivi qua. E poi WhatsApp, che è un metodo estremamente popolare ormai, no? Super sdoganato, era molto utile per tutti quanti, e quindi quello è stato anche vincente, perché c'era la possibilità di parlare con tutti contemporaneamente, di fare addirittura l'ordine a distanza, no? Per le persone, però sempre di venirlo a ritirare qua. Non abbiamo mai voluto consegnare a domicilio per due motivi. Uno, non abbiamo la forza, perché siamo io e lui, non ci siamo mai veramente ingranditi. E questo secondo me non è tanto il fatto che io, per esempio, mi sento sempre a disagio, no? nel termine imprenditore, imprenditrice, e quindi sul fatto investiamo in una cosa piuttosto che in un'altra, però l'investimento mi fa rabbrividire per lo più, ma dipende anche dal fatto che noi abbiamo sempre cercato di fare, essendo noi in un posto come dire, urbanizzato comunque, è un'agricoltura in un posto urbanizzato, perché noi siamo a 5 minuti dal centro di Santa Anastasia. Con la macchina è facilissimo da raggiungere da Comigliano, da Santa Anastasia, da Somma, è abbastanza facile. Il discorso è, voi dovete venire in campagna, non è la verdura che deve venire da voi, cioè venite fin qua, parlate con noi, vi portiamo nell'orto, abbiamo portato decine di famiglie nell'orto a vedere come facevamo. Tanti ragazzi che volevano imparare, volevano capire come avevamo messo su questa piccola realtà, e abbiamo lavorato solo su quello. L'oggetto non può essere la semplice compravendita della frutta e della verdura. Non è quello che ci interessa. Quindi noi non abbiamo mai voluto fare la consegna a domicilio o del trasporto a casa di qualcuno, perché le persone devono venire in campagna, devono venire a vedere quello che facciamo. Quando qualche volta ci hanno chiesto il costo, noi storciamo sempre il naso, perché quando ci chiedono il costo vuol dire che tu, prima di chiedermi il costo, mi devi chiedere come lo coltivi, quando lo coltivi, con cosa l'hai coltivato, come l'hai diserbato, l'hai trattato, come l'hai trattato. Allora alla fine ti posso spiegare quanto costa, sennò il costo rimane solo una cifra a cui tu dai un valore che non è quello del cibo, è un valore economico. Il cibo che produciamo noi non ha un valore economico. Noi produciamo per le persone che vengono a comprare qui come per nostra figlia. Le passate nostre sono quelle che vendiamo, sono le passate che mangiamo noi. In genere gli agricoltori ce l'hanno questa abitudine, le stesse, no? Verdure. Fanno il convenzionale che vendono a tutti, e poi per se stessi si fanno l'orticello. Le stesse verdure che noi mangiamo, gli avanzi, le verdure più brutte che rimangono qui fuori, entrano in casa nostra. Le più belle vengono date alle persone, condivise con le persone. Io non uso nemmeno il termine vendita, perché noi condividiamo, non vendiamo. Questo sarebbe un buon momento per raccontarci invece come funziona con la Buona Terra, no? Che invece ci hai detto c'è una prenotazione, non sono persone che vengono qua. Se ci raccontate un attimo quest'altro canale, circuito o progetto, quello che è. Sì, allora l'Orto Conviviale nasce nel 2017 maggio, io giugno 2017 entro nella Buona Terra. Quindi in realtà parte dell'elaborazione Giulio, io la chiamo filosofica perché la filosofia di vita è come dire, quello che sottende l'orto conviviale, secondo me non può essere espresso con un'altra parola, però io filosoficamente, concettualmente nasco dentro l'economia solidale. Ho imparato gli strumenti dell'economia solidale da subito, ho avuto questa grandissima fortuna, perché in realtà sono stata contattata per entrare dentro il progetto La Buona Terra, non sono stata fra le fondatrici, no? Questa cosa mi ha fatto crescere molto, perché è un processo molto bello e molto difficile, che vede insieme da una parte, attualmente siamo al 7° anno di lavoro, quindi non è più una sperimentazione, è una realtà consolidata, questo è il 7° anno, adesso siamo 6 realtà di produzione e trasformazione in Campania, non soltanto nell'area vesuviana, perché dell'area vesuviana ci siamo noi e l'azienda di trasformazione del cugino, quindi che è Cacciola, Daniele Cacciola, e poi ci sono Roccarainola, c'è Salerno, Acquara, e quest'anno c'è la cooperativa Stalker di Eboli, Acquara c'è Cinzia Maucione, che è un'altra azienda biologica, e quest'anno c'è anche dell'area vesuviana, quindi a 5 minuti da qua, Bruno Sodano, che è entrato dentro il progetto La Buona Terra, che qui è un'istituzione, Bruno, è una realtà agricola storica. Insomma, è molto interessante perché noi produciamo, dall'altra parte ci sono le famiglie sempre che acquistano. Se volevamo staccare con la grande distribuzione, come ci è stato chiaro fin da subito, è chiaro che i progetti di rete erano una delle cose che ci poteva salvare e tenere in piedi, no? Quindi, però di un certo tipo. Io per esempio all'inizio mi sono studiata anche, perché l'agronomo si era messo nelle orecchie, le organizzazioni di produttori, no? Le OP, che sono grandi concentrazioni in realtà di imprenditori e imprenditrici che però hanno altre finalità, cioè nel senso hanno un'ottica sulla terra che è quella dello sfruttamento totale, quindi non mi interessava, anche il biologico in quanto tale, certificazione non funziona per me, quindi non mi interessava quel percorso. Quindi le famiglie che sono dentro la Buona Terra fanno parte invece di, io non ti so quantificare quanti gas, però ci sono 3-4 grosse reti di gas, quindi di gruppi di acquisto solidale, dalla Brianza alle Marche, c'è Bergamo, c'è parte della, c'è Parma, insomma ce ne sono le Marche, c'è anche in parte la Toscana, la parte alta, quindi il Nord Italia come chi acquista e il Sud Italia per chi produce. Il prodotto che ci tiene insieme è il pomodoro, perché la Buona Terra nasce soprattutto per dare un'alternativa allo sfruttamento lavorativo. E il pomodoro è l'emblema del caporalato, è l'emblema dello sfruttamento a tutte le latitudini, ma è chiaro che essendo prodotto principalmente nel sud del mondo, è chiaro che il sud viene anche un po' preso come è il luogo geografico dello sfruttamento, poi sappiamo benissimo che caporalato e sfruttamento in agricoltura sono transnazionali e translatitudinali, diciamo così, non sono ovunque. Come facciamo a stare insieme? Che è la cosa più interessante di tutti. Il gruppo di acquisto solidale nell'economia solidale è lo step 1, cioè gruppi di famiglie che si mettono insieme. Ciao tesoro, mia figlia Giorgia. Sto andando. Questa è una consegna a domicilio, vado a casa di mia sorella. Non è che diciamo, facciamo il contrario di quello che diciamo. Quindi il gruppo di. Ciao, il, ragazzi. Ciao. Il gruppo di acquisto solidale è lo step 1. Un gruppo di famiglie si mette insieme per risparmiare, per mangiare meglio e conosce personalmente i produttori da cui acquista. Comprando in grandi quantità, in genere si risparmia un po' perché si mettono insieme più famiglie. Nell'economia solidale c'è uno step 2, che è quello del patto di economia solidale e che è quello della buona terra. Che cosa significa? Che i gruppi di acquisto solidale, gas di cui sopra, non si limitano soltanto a conoscere il produttore, a verificare che produca in maniera ecologica. In realtà si decide insieme per tutto l'anno cosa coltivare, quanto coltivare, che prezzo dare al prodotto che quelle famiglie acquisteranno. Quindi, come funziona? Normalmente il pomodoro si mette a terra, dimora, si comincia a lavorare il terreno verso marzo. Da quel momento tutti i produttori e i trasformatori, ovviamente in una fase successiva, contabilizzano in maniera molto però senza business plan, senza carte pazzesche, sono semplicissimi fogli Excel che ci siamo costruiti insieme, di cui siamo tutti dotati, contabilizziamo i costi che abbiamo dovuto affrontare per la produzione del pomodoro. Lo facciamo da quando prepariamo il terreno fino all'inscatolamento del barattolo finito. Questi più ovviamente in questo che cosa entra? Entra anche il costo del lavoro, quindi le persone che devono essere rigorosamente sotto contratto, ovviamente non solo sfruttate ma devono essere anche garantite dal punto di vista contrattuale. Vale anche, che so, se il terreno è in affitto devi dichiarare per dire quanto spendi per l'affitto, quali costi sopporti dal punto di vista dell'acqua, dell'energia elettrica per i trattamenti, le piantine eccetera. E quindi contabilizziamo in maniera semplice tutte queste operazioni. Enzo mi manda su WhatsApp, io e lui abbiamo per esempio semplicissima la chat nostra che abbiamo chiamato La Buona Terra 2023-2024, in cui lui ogni volta che è in campo con i ragazzi mi trasferisce che cosa hanno fatto, quando l'hanno fatto, quante ore hanno lavorato. Quando abbiamo finito questo percorso di contabilizzazione incontriamo, questo ovviamente ci incontriamo sempre a prescindere, però è giusto per chiarire il processo. Quando abbiamo finito di contabilizzare questi costi, ci incontriamo con le famiglie dei gas, in genere incontriamo i loro delegati, dei referenti, perché sono veramente decine e decine di famiglie. Considera che la Buona Terra totalmente ogni anno tra Passate, Corbarino, Piennolo, San Marzano e poi da un paio d'anni siamo riusciti a introdurre le albicocche, gli agrumi di Anna Maria e le papaccelle. Albicocche e agrumi perché volevamo salvare gli alberi, sempre per il discorso di qui sopra. Quindi dicevo, ci incontriamo e insieme, diciamo, questi sono i costi che abbiamo affrontato. Costi di trasformazione, costi di spedizione, costi di scatolamento, qualunque cosa. Quindi facciamo un prezzo finale per il pomodoro di qualunque genere. Insieme a loro poi decidiamo, sulla base di quei costi, quale deve essere il prezzo finale, che tenga conto ovviamente di una remunerazione minima per chi produce e faccia salvi il potere d'acquisto, che ormai è sempre più basso ovviamente, delle famiglie dall'altro lato. All'interno è molto interessante anche la distribuzione dei compiti, perché i primi 5 anni il progetto La Buona Terra aveva un coordinatore unico, che era anche pagato, e guarda caso era un uomo, quindi era pagato. Adesso che ce lo siamo suddivise questo compito, siamo 3 donne, però è stata una scelta perché soprattutto nel post-Covid i costi di produzione sono lievitati in una maniera tremenda, no? Tra cambiamenti climatici, i conflitti in Europa e il Covid, insomma l'immediato post-Covid, siamo ovviamente insomma in una condizione economica completamente differente, quindi noi abbiamo cercato di smussare un po' gli angoli di questo prezzo e quindi i compiti di coordinamento non sono più remunerati, siamo 3 donne, quindi è un gruppo a trazione femminile. Io mi occupo dell'aspetto politico e comunicativo, quindi sono io a tenere un po' i contatti con il mio omologo del Nord, che è del Despri, del Distretto di Economia Solidale della Brianza. Mi occupo di verificare che il patto come significato politico venga rispettato. E che cosa significa? Cioè al di là del rispetto dei criteri base, che sono l'ecologia nei campi, che è liberi da sfruttamento e la remunerazione base, diciamo così, per gli agricoltori, significa soprattutto riuscire a stare insieme, che è la cosa più difficile che c'è. Perché l'ambizione del progetto non è nemmeno tanto cercare di arrivare a vendere il pomodoro e le albicocche, che pure ci sta e abbiamo diritto assolutamente, no? Che non è che ci fa schifo restare a galla dal punto di vista economico. Però l'ambizione del progetto è tirare dentro questa forma alternativa di economia quei produttori e quelle produttrici, quei trasformatori e quelle trasformatrici che invece sono abituati soltanto all'economia classica capitalistica, no? E non è facile poi, perché chi è abituato a ragionare in un modo, quando si trova in questo contesto, deve cominciare a ragionare in maniera diversa. Ci vuole un po' di indulgenza, bisogna camminare insieme, gli errori sono errori, li facciamo tutti e non dobbiamo mai porci con giudizio, cioè giudicando nei confronti degli errori che tutti facciamo. Quindi questo è l'aspetto veramente base, l'aspetto principale. Funziona bene, nel senso che nonostante tutte le difficoltà che comunque abbiamo affrontato, a volte sono state grandi, però il progetto, il gruppo tiene da 7 anni e quindi noi siamo molto contenti. Quest'anno poi tra l'altro insomma per avere un canale in più di comunicazione con le famiglie del nord, io mi occupo di mandare una newsletter mensile in cui noi li aggiorniamo sull'andamento del pomodoro, le piante come stanno, come il tempo, il meteo, no? Che sopra piove, allaga qualunque cosa, qui invece noi soffriamo molto spesso di temperature troppo forti, c'è uno stress idrico notevole che sui pomodori provoca la qualunque, no? Dalla pirosi, la peronospora, quella che sia. Quindi li aggiorniamo su queste cose e li aggiorniamo anche, per esempio, su tutti gli eventi o incontri che riusciamo a fare. La Stalker, che è una cooperativa sociale, insomma, magari ecco, in questo momento è veramente forse il nostro gioiellino principale, perché loro riescono a lavorare con persone con disagio psichiatrico, insomma, sul territorio salernitano fanno moltissime, moltissime cose. Quindi. Cerco, mi muovo un attimo rispetto all'organizzazione del lavoro agricolo e non dell'azienda. Diciamo, la domanda è, oltre te, chi lavora nella realtà produttiva, cercando appunto di raccontarci come è organizzato questo lavoro, no? Qualche pezzo anche qua ce l'hai raccontato, un po' tipo chi siete e chi fa cosa. Allora, siamo principalmente io e mio marito Enzo. Io, come ho detto, insomma, la parte tecnica in campo non riesco a seguirla più, quindi mi occupo di tutto il resto, fondamentalmente. Enzo invece sta prevalentemente nei campi, però lo può fare soltanto il sabato e la domenica, perché i ragazzi che abbiamo trovato, purtroppo abbiamo grandissimi problemi a trovare le persone che vengano a lavorare, anche se sotto contratto e anche con una giusta paga per le ore giuste. Comunque prendono 50 euro e sono 6 ore e mezzo di lavoro con il contratto, ovviamente, e non riusciamo nemmeno a farlo a tutti il contratto, perché per quanto io mi spolmoni per farmi portare documenti eccetera, io non sempre ci riesco, e per noi è una cosa abbastanza grave, non soltanto in relazione alla buona terra, ma perché noi siamo in grado di offrire queste cose, assolutamente sì, e però non riusciamo a trovare le persone. Però siamo anche abbastanza fortunati, perché i ragazzi che vengono di sabato e domenica vengono solo di sabato e domenica, perché durante la settimana fanno i muratori altrove e sono disponibili a venire solo sabato e domenica, e noi non riusciamo a fare il discorso che per esempio ci raccontava Bruno Sodano quando l'altro giorno siamo stati in azienda da lui per fare un incontro della buona terra, che lui chiaramente ha molta più terra. Poi è un'azienda agricola a 360 gradi, nel senso che lui fa solo quello, hanno il laboratorio di trasformazione dentro, quindi c'è anche un'altra quota di lavoro, quindi lui aveva messo anche i fiori, per esempio, ci raccontava, aveva fatto vedere le peonie che aveva messo, e anche il ruscus, se non sbaglio, perché ha detto, io così ho lavoro tutto l'anno e riesco a dare lavoro alle persone, perché dice, io ho tre collaboratori che stanno con me sempre. Noi non riusciamo ad offrire un lavoro che non sia letteralmente stagionale, perché d'inverno qua non c'è, soprattutto con gli alberi da frutto che sono la maggioranza, non c'è tanto lavoro da dare. Quindi i ragazzi, chiaramente, insomma, quelli che riusciamo a trovare, che rimangono con noi più a lungo, cioè sono pochi, poi spesso se ne vanno, sono ragazzi africani, quindi hanno le famiglie in Africa, tornano, oppure se trovano giustamente un lavoro diverso se ne vanno, perché per esempio noi avevamo un ragazzo bravissimo a cui volevamo veramente tanto bene, che è Modi, e Modi chiaramente ha preferito andare a lavorare in una camiceria, perché era una fabbrica, non stava sotto il sole, ma giustamente, se la terra non è la tua, ma perché devi venire a fare il bracciante? Lo fai perché devi, non c'è una... Quindi il lavoro è organizzato così, questo è. Prima dicevi... Volevo chiedere... C'è anche poi una quota di esigenza di operai specializzati per andare poi a fare quei lavori che poi uno stagionale in realtà non riesce a fare. Riesci poi a, riuscite a trovare qualcuno? Avete qualcuno così sotto questo aspetto? Oppure avete difficoltà anche? Allora, per quello che riguarda gli alberi, le potature per esempio, no? Siccome sono tanti, Enzo da solo, e poi Enzo dice sempre che la potatura lui non la vuole fare, perché è un lavoro specializzato. Qua esiste ancora una squadra di potatori, in realtà sono due o tre persone, che si muovono, però ormai hanno pure loro intorno a 60 anni, quindi presto, non lo so. E però Don Vincenzo e Don Mimì, senza di loro non sapremmo proprio che fare con gli alberi. Anzi, quest'anno addirittura, visto che i ragazzi in settimana non potevano venire perché lavorano altrove, quelle poche albicocche che abbiamo raccolto ci hanno aiutato loro a farle, quindi sono stati indispensabili. E con Don Vincenzo e Don Mimì c'è un rapporto ovviamente ancestrale, perché erano gli amici del papà di Enzo, erano più giovani ovviamente, però insomma sono quelli dell'altra generazione. E poi invece per i pomodori, per la sfemminellatura, quindi quando facciamo la cimatura intermedia per la produzione, è Daniele che ci fa, ci sono delle signore che stanno qui, qui vicino, la signora Rosa e le altre, insomma, che vengono e fanno loro questo, questo lavoro, quando possono però. Cioè nel senso che una volta, quest'anno sono venute la domenica, sono venute la domenica mattina, sono due di loro, eccetera. Se le trovi disponibili, se vogliono. Una volta le ho accompagnate io in macchina a casa l'anno scorso e mi facevo un po' raccontare, no, da loro questo lavoro, e loro dicevano che giustamente i figli, le figlie, non è che voglio, si vogliono mettere a fare questo lavoro, quindi una volta che loro non ci saranno più sarà molto difficile trovare delle persone specializzate. Ancora sono le generazioni precedenti, o almeno io non le conosco libera, più giovani, no? Invece per il trattore c'è qualche trattorista esterno? Allora, il trattore per noi è la cosa più divertente, cioè le persone qua, siamo uniti dal trattore in realtà, perché Enzo ha ancora il trattore che c'ha, ormai c'ha 45 anni, che era del papà di Enzo, che lui si comprò, che siccome il papà di Enzo, come tutti i contadini della zona, qui c'è stata una migrazione interna alla fine, siccome c'è Pomigliano e c'è l'Alfa, adesso Leonardo, e tutti quelli che lavoravano la terra prima, come si aprì l'Alfa Romeo ed ebbero la possibilità di fare gli operai, lo fecero. Quasi tutti. E poi Aniello continuava a gestire la terra nei turni, no? Faceva il turno di notte, la mattina si metteva sul trattore e gestiva la terra. Quindi è stata una migrazione interna, non sud-nord, ma intraregionale. Questo trattore è ancora quello, che è un'ottima macchina, chiaramente è stravecchia. Sostituirla non se ne parla proprio, perché è un investimento di almeno 30-40 mila euro e non ci stanno. Ma poi io ho 52 anni, Enzo, siamo lì. Quanto tempo ancora fisicamente possiamo gestire l'azienda agricola? Cioè fare un investimento a perdere non ha senso, più che altro dovremmo comprare i pezzi, no? Dietro per più nuovi, per tagliare. Uno l'abbiamo comprato, ma comunque ogni volta sono 3.000 euro, non è che possiamo fare 3-5.000 euro, non riusciamo. E quindi no, c'è solo Enzo che guida il trattore, io l'ho guidato un po' all'inizio, però cose molto blande, insomma, non lavori eccezionali. Ai ragazzi non lo diamo perché loro non sono trattoristi, e a parte insomma tutto siamo anche preoccupati della loro incolumità. Il trattore non è la cosa più facile da portare, anzi gli incidenti, cioè quelle che si chiamano le morti verdi dell'agricoltura, sono sempre più diffuse, e noi ci sentiamo responsabili non per noi ma per loro, non si devono fare niente. Dicevo, scusami, che è la cosa divertente, perché Enzo mi fa continui post su Facebook sul fatto che gli devo comprare il trattore, quindi la gente la gente che arriva qua fa le pance delle risate. Allora, perché qua funziona veramente come una famiglia, no? Tutte le persone ci conoscono ormai, sono fidelizzatissime. Quindi quando... Luna? Ombra? Stellina? Che c'è? Vieni qua. Stellina? Vieni? Vieni. Che c'è? Sei fatta male? Ho visto qualcosa. Ho visto qualcosa? Vedono sempre qualcosa in realtà. E quindi niente, il trattore è veramente quello che tiene unito tutte le persone dell'orto conviviale, che si fanno tante risate a crepapelle per questo giochetto che c'è fra me. Invece questi lavoratori specializzati, no, che c'è nominato nel secondo giro, sono contrattualizzati? Che... Non gliene frega niente, non vogliono averlo, cioè proprio non... Noi vorremmo fare il contratto a tutti. L'unica cosa che non abbiamo mai fatto, come fanno in tanti, sono quelli fittizi, no? Che li fai al nome di, e però non vengono mai a lavorare. Noi abbiamo fatto solo i contratti, eccetera. Però, allora, i potatori vengono... Ormai li potiamo, cioè, non potiamo più nemmeno tutti gli alberi, perché, come ho detto, li curiamo meno. Fate a rotazione. Bravo, esattamente. quindi in realtà il lavoro che diamo rimane sempre poco. Sono persone di altre generazioni, noi per quanto ci offriamo, ma loro non sono proprio interessati, ma manca i ragazzi, in realtà, cioè noi siamo noi che imponiamo il contratto anche ai lavoratori maliani, no? Ai ragazzi che vengono qui a lavorare, ai ragazzi africani. Ma se ti dovessi dire che loro sono seriamente interessati ad averlo, no, non gliene importa niente. Uno solo perché se n'è andato, insomma, faceva più l'imprenditore con i soldi che ha guadagnato qua, lui ci mandava le foto dall'Africa della casa che si era costruito, babba, quando stava giù. Una sola volta ci ha chiesto il CUD. È stato l'unico che ci ha chiesto il CUD, gli abbiamo mandato, basta, ma per il resto. Questi ragazzi maliani dove vivono? A Santa Anastasia, stanno nella parte alta di Santa Anastasia, a Capodivilla si chiama, questo è Ponte di Ferro come zona. Enzo la mattina li va a prendere in macchina e li riporta. Ma sono ospiti di un centro? No, vivono insieme. Hanno preso un appartamento e sono, mi pare, 3-4 di loro che vivono insieme. Infatti si chiamano Masi, e cioè c'è tutti i nomi uguali praticamente. Come li avete conosciuti? Allora, Masa, ma lo sai che non mi ricordo Masa, perché poi il giro è sempre quello. In realtà lo sai come funziona con tutte le migrazioni. Arriva uno, per il fratello, il cugino, eccetera, eccetera, quindi alla fine si sparge un po' la voce. Babba, però, quello del CUD di cui ti dicevo prima, la residenza ce l'aveva ad Acerra, ed Enzo andava fino ad Acerra a prenderli e a portarli. Noi una volta noi abbiamo cercato aiuto, lavoratori, quindi anche per esempio quello che si chiamava prima lo SPRAR di Pomigliano, prima c'era, e siamo riusciti ad entrare in contatto anche con un paio di ragazzi. Mi ero offerta io di andarli a prendere un ragazzo alla stazione di Santa Anastasia, perché veniva invece da, proprio all'inizio, forse da Torre del Greco. E poi questo povero ragazzo, alla fine, che insomma, la famiglia presso la quale lavorava, che aveva la pescheria, non lo poteva tenere più a lavorare, e lui aveva problemi di depressione. Quindi quando ho parlato con lo SPRAR, noi cercammo di integrare, cerchiamo di fare un lavoro, insomma, di accogliere queste persone in casa. Non è sempre facile, perché loro chiaramente hanno le loro vite, hanno le loro personalità, hanno le loro abitudini. Io prima cucinavo anche per loro, no? Soprattutto i primi anni, noi oltre ai soldi e al contratto offriamo anche il pranzo e la colazione. Adesso è rimasta solo la colazione, quindi prendiamo i cornetti oppure li preparo io, il dolce in casa, il caffè, e li portiamo in campagna. E prima io preparavo panini, pasta, eccetera. Poi da quando un gruppetto è cambiato, e quindi sono cambiate le persone, sono cambiate anche le abitudini, non hanno più tanto voluto. I primi anni avevamo invece Elia, che era un lavoratore rumeno, che abita ancora in un container in fondo alla strada. Abbiamo cercato di toglierlo dal container, gli abbiamo cercato casa, non è stato possibile in nessun modo, nessuno lo voleva in nessun modo, è rimasto là. Però con Elia purtroppo è andato a finire male, perché purtroppo Elia beveva tanto e una sera ha minacciato Enzo addirittura. E era completamente ubriacato una sera, cioè l'ha minacciato. E quindi poi qua ci siamo io e all'epoca Giorgio era anche molto più piccola, quindi anche per questioni di sicurezza non l'abbiamo potuto tenere più. Però ci abbiamo provato veramente tutti i modi, Giulio. Io volevo farti una domanda un po' anche indagatoria. Sì. Pensi mai che c'è bisogno di creare un tipo i corsi che fanno per le varie situazioni lavorative, tipo non so, io il corso per l'inglese, per introduzione poi nel mondo lavorativo, l'informatica di base. Farlo anche rispetto al mondo agricolo, per educare ed insegnare le persone a fare una tipologia di agricoltura un po' più intensa, un po' più organizzata, bene, non so se mi sono... Perfettamente. Che succede? Per no, zanzare? Mi è contrario che io faccio domande. Io le devo fare perché allora, sento un po' più del mestiere. Eh no, ma tu c'hai ragione, perché... No, anche perché, no, io mi sono sempre chiesta, ma se io avessi voluto fare agricoltura e non avessi avuto mio suocero che mi insegnava a fare le operazioni, no? Allora, io credo molto nel confronto fra colleghi, nel senso che io la maggior parte delle cose, è vero che ho studiato sui libri, ma perché volevo capire il concetto di base, no? Capire che strada politica dovevo prendere per l'orto convivale. Però poi le operazioni si imparano solo quando le fai. E il problema qual è? È che per questo tipo di agricoltura, o una volta c'erano le scuole ambulanti, no, di agricoltura, c'erano quelle che viaggiavano, c'è stato un tentativo politico, perché io poi, stando dentro l'Alleanza Sociale per la Sovranità Alimentare per un periodo di tempo, Altra Agricoltura, insomma, che era un'organizzazione che metteva insieme diversi agricoltori, poi sinceramente non era cosa, perché non riesco a fare quel percorso dove ci sono anche i grandi inquinatori, insomma i grandi produttori convenzionali, non si possono mettere insieme troppe istanze. E secondo me le ultime manifestazioni che ci sono state in Europa sono state abbastanza fallimentari anche per quel motivo, perché insomma erano richieste troppo composite, cioè troppo diverse fra loro. E però mi chiedo, no, è possibile? Cioè mi sarebbe utile, sarebbe molto bello poter tramandare un sapere che tu accumuli e te lo fai con l'esperienza, te lo fai provando, alla fine tentando. Una volta ti va bene, una volta ti va male, a quello che riesce, lo memorizzi e lo porti avanti come si è sempre fatto alla fine. Ma non so se è veramente possibile oggi continuare a farlo, non so, non ho idea, per la verità, per ignoranza, però non so se ci sono ragazzi che vogliono farlo veramente, che sono interessati a fare questo percorso, non ho idea. Torniamo alla traccia dell'intervista. Come faccia, però non so fare. Sì. Poi, però ci provano, non ce poi torniamo, non sto dicendo niente. Poi torniamo alla però fine su queste domande, perché ci aprono una discussione più ampia. Però volete bere qualcos'altro nel frattempo? No, no, no. Sei a posto? Sì, acqua sì, fresca? Vi prometto che ci torniamo alla fine. Allora, io questa domanda a te proprio ho paura a farla, nel senso che in realtà ci hai già raccontato tanto. Qua il tema è genere e generazione. In realtà, se vuoi approfondire sul genere, credo che diciamo molte delle cose che hai detto già ci danno un po', almeno della divisione di genere. Ti chiederei se sei d'accordo, e poi se vuoi parlare di genere, tanto ormai qua siamo in un regime di autointervista, e ti chiederei in particolare se ti va invece di raccontarci del rapporto generazionale, perché tu ci dicevi che voi avete una figlia sedicenne, se sbaglio le sorelle o comunque i parenti di Enzo hanno anche delle figlie, com'è il rapporto generazionale tra voi e la generazione successiva? Hanno interesse nell'agricoltura, svolgono alcuni ruoli particolari, avete parlato di che cosa possa succedere nel passaggio generazionale? Allora, la risposta sarebbe molto semplice, no. Ma proprio stringata, cioè non sono interessate, perché studiano le più grandi. Giorgia, mia figlia, che ha 16 anni, è la più piccola, e le altre sono tutte all'università ormai. Hanno scelto materie tecniche, architettura, ingegneria, quindi a questo discorso non sono interessate. Non sono interessate, per la verità, nemmeno culturalmente a quello che abbiamo fatto qua, nel senso che per esempio fra tanti eventi che abbiamo svolto nell'orto, io le ho sempre pagate per venire ad aiutarmi, no? Perché avevo bisogno, tante famiglie, tanti bambini, anche solo per dare pane e marmellata a tutti, insomma, ha bisogno di una mano, quindi loro sono sempre venute e le ho sempre pagate. Però al di là del lavoretto e che a loro serviva per pagarsi le loro cose, non c'è mai stato un vero interesse. Io penso che nessuno sia profeta in patria, cioè questa purtroppo secondo me è una di quelle cose, siccome i ragazzi e le ragazze, ma questo non accade solo ora, è la stessa cosa che è successa a mio marito. Il padre non voleva che facesse il contadino, che facesse l'agricoltore, perché lui si doveva affrancare dalla durezza della terra e dalla povertà alterna che veniva dalla terra. Quindi lui doveva studiare, si doveva laureare e si doveva. E qui intorno è pieno di figli di agricoltori che si sono laureati, che fanno gli ingegneri e che sabato e la domenica prendono il trattore e curano le albicocche, che qua tutte albicocche, le albicocche dei padri, diciamo così. Finiti noi, cioè quando l'orto conviviale, per questo io mi interrogavo molto quello che sarà dopo, perché in realtà io sono sicurissima che non, questa terra verrà abbandonata. Cioè, finché noi avremo la forza di passare il trattore sotto agli alberi, anche senza fare solo l'orto per noi, però finché ci saremo noi, bene. Dopodiché, se non troveranno nessuno a cui affidarla questa terra, perché il problema è diventato anche questo, non si trovano nemmeno persone che la curino per te la terra. A volte qua siamo inondati di richieste, ma puoi vedere se c'è qualcuno che viene a pulire il terreno, perché là il pezzo di montagna non si trova nessuno, almeno nella mia esperienza, poi non so chiaramente quanto è generalizzato, però Giulio no. Sei contenta della tua condizione? Della mia condizione che intendi? Tua condizione di vita, economica, sociale, di quello che, di come vivi grazie alle tue attività che ci hai descritto. Sono la persona più felice del mondo e non lo dico perché, e non lo dico nemmeno per entrare nel cliché che chi torna alla terra è felice per forza, non è quello, è perché, allora, sicuramente lavorare e stare nella terra e fare questo tipo di lavoro che ha contatto non soltanto con la vita ma con le persone, tante tante persone, è molto bello. Certo, è anche molto stressante perché le persone non sono tutti uguali, e poi noi veramente intendiamo, cioè noi non abbiamo mai voluto essere più grandi, abbiamo provato, e non so quanto ci siamo riusciti a essere migliori, che sono due cose completamente differenti. Questo essere migliori, almeno il tentativo di essere migliori, significa anche trattare, ecco, le singole piante per come devono essere guardate, e questo vale anche per le persone. Quindi io, per esempio, a me piace molto dire, perché è la verità, che io ricordo le abitudini alimentari di tutte le persone che vengono qua, e le persone ammalate che vengono a prendere le cose, che passano sempre avanti, no? Per avere le verdure, i bambini piccoli. Le persone vengono e si confidano e si aprono. Questa parte d'ascolto attivo, che secondo me è proprio insita nel tipo di progetto, ma un po' anche in generale per chi fa terra, perché le persone entrano, no, in un posto dove ci sono gli alberi e dicono mi ricordo quando, quindi questa apertura della memoria è già tantissima, oppure dicono ah, io respiro qua dentro, questo respiro che prendono le porta anche a un'emissione di voce che è quella poi del racconto di quanto stanno male o di quanto stanno bene o di come si sono divertiti. È meraviglioso. La parte, perché tu riesci ad avere un senso, cioè tu ti rendi conto che a parte produrre cibo vivo, tu alla fine inneschi un processo di relazione di cui il mondo ha tanto bisogno, e le persone si vede, perché altrimenti non te le racconterebbero le loro cose, hanno proprio bisogno di parlare, hanno bisogno di relazionarsi anche in quello che viene concepito come un punto vendita. Io non sono l'esercente del bar. Sono una persona che vende sì, ma comunque con certi criteri. E quindi le persone in uno spazio di casa, uno spazio di accoglienza, si aprono. Questo già mi rende felice. Ma l'attività politica, che per me è stata fondamentale, e che mi ha fatto crescere moltissimo come laboratorio di coraggio e di consapevolezza, perché io avevo paura di tutto, invece attraverso la terra, attraverso la politica ho imparato anche ad avere un'assertività diversa, le riflessioni sul genere, il lavoro sul femminismo, sull'ecofemminismo, la scrittura, perché ho sempre scritto tanto in relazione all'agroecologia e alla prospettiva di genere, mi hanno fatto, insomma, mi hanno reso molto felice. C'è qualcosa che non va? Quali sono invece i principali problemi che incontrate nella vostra attività? La vecchiaia sicuramente, mamma mia, ti fai anche meno tollerante. Diciamo la maturità. Bah sì, mettiamola così, la saggezza. Allora, con l'andare del tempo, vabbè, a parte lo stress fisico, insomma, che è notevole, la salute, quello che vuoi su, però anche, insomma, avere a che fare con le persone diventa più complicato, forse tu rivendichi anche uno spazio che sia più tuo rispetto a quello che è sempre collettivo, no? Che ho fatto sempre vita super collettiva, quindi questo. Però di questa vita, guarda, adesso moltissimo i cambiamenti climatici ci stanno uccidendo. sia dal punto di vista della produzione sono una cosa terribile, ma anche le condizioni di lavoro, cioè faccia lavorare a 40 gradi, lo devi fare, perché non è che non puoi evitare, puoi casomai alzarti alle 4, piuttosto, ma comunque alzati alle 4, e quello è difficilissimo. E poi per il resto noi abbiamo trovato una strada, diciamo così, intermedia, che ci dà la possibilità di comunque di stare, no? Secondo quello che noi pensavamo fosse l'agricoltura, l'agroecologia. Quindi diciamo che, siccome io sono molto felice anche perché, cioè, di fondo l'orto conviviale è veramente il luogo che ho costruito, non voglio sembrare, come dire, sussiegosa, però è vero che è anche a mia immagine e somiglianza. Cioè, questo è un lavoro che mi sono costruito per come è costruita, per come io desideravo che fosse, nel rispetto di ogni forma di vita, per tutto quello che potevo fare, però sono io. Allora, già poter fare un lavoro in cui io sono io, con tutti i cambiamenti che ho avuto negli anni, che continuano a esserci, ci saranno sempre, perché io oggi sono una cosa, domani io sono un'altra. Però questa, secondo me, è la fonte veramente di felicità più grande. Assorbita in questa sfera, tutte le difficoltà sono gestibili. E invece, quali pensi che siano le sfide principali dell'agricoltura sul territorio in cui ti trovi? Qualcosa ce l'hai anche già nominata, probabilmente, però... Ma allora, io penso che le sfide in questo territorio siano più o meno le sfide di tutti i territori per quello che riguarda l'agricoltura, e che siccome i contadini svolgono un lavoro di grande solitudine per lo più, e questo è un mondo in cui l'individualismo conta più di ogni altra cosa, no? è assurdo proprio a livello teoretico, quindi dobbiamo stare più insieme, cioè il discorso è questo, che in realtà il concetto di rete è una cosa che sfugge a molti, e se la rete non è fatta strettamente per guadagnare, pare che non debba essere messa in piedi. Cioè una rete in cui ci si confronta, magari si fanno delle iniziative comuni, però la cosa, quando io provo a coinvolgere persone, agricoltori che non avevano il mio approccio, diciamo così, all'agricoltura, è sempre stato estremamente complicato, perché se non li portavi a fare i mercati o a fare una cosa in cui vedevano la cosa di soldi, era sempre difficile. Invece noi abbiamo bisogno di pensare insieme quali sono le vie percorribili, mettere a minimo comune denominatore, come si dice, mettere a fattore tutte le nostre difficoltà uno per uno, tutti quanti insieme, e capire insieme che cosa si può veramente fare. Poi grosso modo noi le conosciamo le cose, però non può essere grosso modo innanzitutto, e una storia è diversa dall'altra. Allora questo è il femminismo, no? Il personale è politico, sempre. Quindi la storia di Libera è la sua storia, la storia di Miriam è la mia storia, ma hanno entrambe un grandissimo valore, le sue difficoltà, anche se sono diverse dalle mie, dobbiamo trovare il modo per gestirle collettivamente, nella specificità di quella difficoltà. Renderci tutti omogenei e tutti uguali perché facciamo più o meno lo stesso lavoro, secondo me non serve a niente. Dobbiamo invece cercare il modo per aiutare Libera nelle sue difficoltà, Miriam nelle sue, Vincenzo nelle sue, eccetera, eccetera. Posso fare una domanda? Ci vuole. Allora, siamo a un'ora e mezzo di intervista. Sì, dobbiamo sfandare il po' di libro. No. Mettiamolo a verbale. No, alla fine, diciamo, con gli altri agricoltori tu hai cercato di rapportarti e di trovare dei punti in comune. Io ti chiedo, sempre da donna, sì, che difficoltà hai avuto a relazionarti con loro, o l'hai dovuto fare sempre come tramite, usando tuo marito? Un po' e un po', perché anche quando per esempio andavo a parlare, mi chiamavano, però sul piano politico e non tecnico, a parlare di agroecologia anche in contesti dove c'erano, che io ho sempre cercato di evitare, però a volte te li trovi davanti, col diretti, tutta questa gente che io fondamentalmente non condivido, di cui non condivido niente. Da donna non ero presa granché in considerazione, per la verità, perché in realtà, anche perfino quando sono andata a fare, sai, un'azienda agricola per legge deve avere, io devo avere il patentino per l'uso dei fitofarmaci, è un obbligo di legge, un adempimento. Quindi all'inizio che abbiamo aperto l'azienda agricola sono andata a Marigliano, la Coldiretti purtroppo aveva organizzato questa cosa, il commercialista mi aveva indirizzato, quando io ero l'unica donna insieme a 10 colleghi uomini che parlavano tutti del ragno rosso e di come avevano buttato caterve di pesticidi per sconfiggere questo benedetto ragno rosso sul pomodoro. Io ero esterrefatta e allibita. Quando alla fine c'era quell'esamino finale con i dottori dell'ASL, insomma, per prendere questo patentino, signora, ma lei mica va a lavorare nella terra? No. Ho detto, certo che vado a lavorare nella terra. Ho detto, sì, perché si aspettano che le donne facciano solo lavoro amministrativo, siano intestatarie dell'azienda al massimo, nel prestanome, e poi che il lavoro pratico non lo facciamo noi, che le decisioni tecniche in campo non le prendiamo noi, ci sono sempre, c'è qualche uomo dietro o davanti che fa queste cose. Quindi in realtà anche quando ho provato a parlare con i miei colleghi, a meno che non fossero amici, che mi avevano conosciuto, che nel tempo si erano fidati, che comunque avevano visto che facevo un lavoro eccetera, per il resto, ma anche la gente che viene a comprare qua, se sono occasionali, se sono uomini cinquantenni, vogliono parlare con Enzo, con me non vogliono proprio parlare. E se stiamo tutte e due qua fuori, si rivolgono solo a Enzo. Quindi c'è una questione di genere, ma questo è chiaro, in agricoltura. Una volta, la dico qua brevissima, poi la chiudo, l'8 marzo di 3 anni fa, fui chiamata a parlare in un convegno internazionale importante online, sul lavoro di cura. Ovviamente era l'8 marzo, quindi era un convegno femminista, c'erano grandi nomi del femminismo internazionale e c'erano anche diverse contadine che venivano dall'India, insomma, che svolgevano un lavoro simile al mio eccetera, ma tutte quante, anche se loro a latitudini diverse, ovviamente hanno guai molto peggiori dei nostri, noi ancora siamo fortunate. Comunque rimane il fatto che noi siamo pari alle piante in un paesaggio roccioso, a stento ci guardano, siamo là, abbiamo una nostra vita, ma è uno spazio che ci dobbiamo ricavare noi, perché altrimenti qua nessuno, noi siamo al massimo destinatari di finanziamenti, ma non siamo soggetto di diritti, che sono due cose completamente differenti, e non lo siamo soprattutto dal punto di vista culturale. E la stessa cosa, diciamo, anche tuo suocero e tua suocera avevano questi compiti molto diversificati tra di loro. La divisione dei compiti di genere è molto chiara. All'inizio mio suocero, per esempio, quando io dissi che volevo fare l'azienda agricola, mi diceva, vai, sei manillo picciurello. Però, insomma, perché non si rendeva, poi io venivo dalla città, venivo da Portici, insomma, non gli sembrava molto adatta. Però devo dire che lui era stracontento anche che io mi fossi fatta carico, no, di un lavoro che era il suo, perché non si sarebbe mai aspettato che la nuora, manco la figlia, che la nuora al posto delle figlie facesse questo lavoro. Però sì, fra di loro, mia suocera faceva delle cose, cioè nei campi andava relativamente, lei governava gli animali, si occupava di una famiglia enorme e faceva lavoro di cura, quindi c'era una suddivisione, insomma, molto precisa, che un po' era quella classica. Molto patriarcale. E invece, quali sono le tue aspirazioni, i tuoi sogni per il futuro? Una visione di lungo periodo? Anche se non c'entra direttamente con l'agricoltura. Certo. Perché sono piena di cose, sì. Questo, cioè, alla fine poi è anche importante sapere, cioè, le esperienze, le cose delle persone, sì, anche solo nell'ambito agricolo. Perché io sono 2 anni quest'estate che studio scrittura creativa, perché io ho sempre scritto anche per i gruppi politici, io mi occupavo delle comunicazioni, ho pubblicato già, però su saggistica breve, sul tema della giustizia ambientale, da una prospettiva di genere, ecofemminismo. E quindi io, se mi guardo, visto che devo stare sempre più seduta e meno in piedi, chiaramente scrivere è una di quelle cose che continua a essere creativa, perché io sono assolutamente certa che l'agricoltura abbia molto a che fare con la fantasia e con la creazione, questo è uno dei motivi, con la creatività, uno dei motivi per cui la certificazione biologica proprio mi sta strettissima, perché in realtà vogliamo coltivare senza comunicare niente a nessuno quello che vogliamo anche due piante, le vogliamo mettere, vogliamo seguire la nostra idea che è cosmotecnica del campo, la nostra visione del mondo nell'agricoltura. Quindi io in questo momento sto scrivendo un romanzo in cui la terra ha un ruolo fondamentale e continuo, insomma, a occuparmi di letteratura indipendente anche con le case editrici, insomma, della zona. Quindi il mio sogno, se tu mi dici cosa vuoi fare da grande in questo momento, è continuare a fare l'orto conviviale e a scrivere, che è un po' l'idea ciceroniana: se avrai un orto e una biblioteca, allora avrai tutto. E quindi questo è Cicerone. Invece, se ritorniamo alle sfide dell'agricoltura e del territorio, in parte prima ci rispondevi, no, con il tema della cooperazione, ma secondo te che cosa è necessario per superare le difficoltà che molti e molte vivono nell'agricoltura di questo territorio? Allora, dobbiamo andare sulle difficoltà dell'agricoltura generale. Non voglio spendere troppe parole, perché quelle sono le cose di base. È chiaro che le piccole realtà sono strozzate dal mercato, e questo si sa. E che in sede europea le cose vadano malissimo, soprattutto per i piccoli, è chiarissimo, perché il 40% del budget europeo è sull'agricoltura, ma ai piccoli, che fanno un lavoro di ecologico, non arriva quasi niente. Il grosso dei soldi arriva soltanto a chi ha più terra. Questo è il sistema della PAC, della politica agricola comune. È calata ovviamente anche nei piccoli territori. Soffriamo tutti della stessa, delle stesse difficoltà, che sono legate ai canali di vendita, per esempio. Quindi siamo costretti a inventarceli continuamente, perché, fatta eccezione, ovviamente, soprattutto se non vuoi fare l'etichetta in quanto tale, se non vuoi essere legata a certe cose, chiaramente ti devi basare su rapporti di fiducia. E allora i rapporti fiduciari te li devi anche saper costruire. E non tutti sono propriamente in grado di saperseli costruire. Quindi in realtà, al di fuori di quelle che sono le capacità personali di portare avanti un'attività entro determinati binari, ci dovrebbero essere degli strumenti che diano la possibilità a tutti i piccoli, ma veramente non sulla carta, di poter fare l'agricoltura come vogliono loro. Perché l'azienda è una delle carte. Per esempio, senza l'azienda io non sarei potuta entrare nella Buona Terra, che è strutturato invece perché ha un'azienda agricola con contratti di lavoro, eccetera, eccetera. È un rapporto informale, sicuramente, perché non ci sono contratti siglati, non c'è niente del genere, ci sono accordi privati che non vengono registrati, però una certa, diciamo così, forma legale te la devi dare. Quindi in realtà ci devono essere più progetti di rete, che vanno benissimo, Genuino Clandestino, tutto quello che ci tiene insieme. Però secondo me bisogna fare un lavoro politico che non è soltanto quello collettivo di rivendicazione. Cioè bisogna cominciare un attimino ad abbassare l'ego, no? E a mostrare un po' di accoglienza dal punto di vista personale prima che collettivo, perché l'accoglienza è un valore prima personale, poi collettivo. Se io non sono in grado e non ho voglia, no, di aprire le braccia tutte le volte che è necessario, molto probabilmente io non riuscirò a creare nemmeno una rete politica di senso, perché l'individualismo, comunque il presenzialismo, eccetera, sono grandi afflizioni di ogni rete, che sia contadina o che sia operaia. Quindi il problema è veramente culturale, e c'è bisogno di uno sforzo personale molto importante. Però ti ripeto, lo sforzo personale è per chi ci crede veramente e chi ci prova con impegno. Dal punto di vista della tutela dei diritti siamo ancora praticamente zero, perché non siamo più ai tempi di Di Vittorio, in cui le rivendicazioni salariali erano quasi le uniche che ci affliggevano, ma siamo in un periodo di cambiamenti climatici e di grande inquinamento. Quindi la responsabilità che ci dobbiamo assumere è quella ecologica, soprattutto, ed è quella ovviamente a 360 gradi. Senza una conoscenza che deve essere ripartita fra di noi, come tu dicevi prima, imparare il mestiere non è soltanto imparare il mestiere, ma è imparare come farlo senza ledere la salute umana e senza ledere la vita, no, delle piante e degli alberi, perché non c'è nessuno che te li insegna. Perché quando io all'inizio cercavo di imparare bene, cercavo di capire dove potevo andare a imparare questo mestiere, io se non avessi fatto quasi tutto da sola, e mi sono ritrovata la fortuna di mio suocero che mi ha insegnato le cose, ma altrimenti come, da chi andavo? che io mi reinventavo in agricoltura, non ci sono luoghi in cui si può veramente, a differenza dell'America Latina, dove per esempio la Via Campesina mette insieme anche parecchie scuole, diciamo così, sociali, in cui gli agricoltori e i contadini sono in contatto, e però là ci sono anche condizioni diverse. Di tutto questo, cosa pensi che poi possa fare tu e cosa invece possono fare altri? Tipo chi? Cioè, c'è un'associazione che lo può fare, un gruppo di persone, la politica? Allora, siccome io non credo nella politica delle istituzioni e non ci credo, cioè non fa proprio parte del mio percorso, da femminista sono anche molto antistatalista e quindi io, per me lo Stato è padre, quindi non c'è niente che può venire di buono da là, soprattutto finché rimane una struttura gerarchica com'è, come sarà per almeno i prossimi, fino alla fine del capitalismo, diciamo così, quindi per me da là non esce niente. Si può tentare ovviamente di con la rivendicazione dal basso, quella serve sempre, alimentare il conflitto è necessario. Se tu mi chiedi quali associazioni e quali strutture, tra virgolette, territoriali possano farlo, nessuna di quelle che è istituzionalizzata, quindi né sindacati né nulla, non è proprio possibile, sappiamo tutti come lavorano, a chi sono legati e quali cordate portano avanti dal punto di vista politico, per l'appunto, quindi non mi interessa. Ho provato in diverse organizzazioni politiche dal basso che si occupavano di agricoltura di portare avanti un certo discorso sia di genere che sull'agroecologia come incontro di saperi, e non c'è stato molto verso, perché anche nelle organizzazioni dal basso le strutture sono sempre verticistiche, e almeno quelle che ho attraversato io. Si può sapere quali sono? Sì. Solo. Mi fai un favore perché tengo un'angoscia. Salvi questo file